Scioglilingua, un esercizio della nostra italianità senza troppe pretese. No, senza troppe pretese. Senza troppe pretese. Senza troppe pretese. Ma che fate? Senza troppe pretese, non è difficile. Senza troppe, no, troppe no. Troppe pretese, no. Pretese no, senza troppe pretese. Senza troppe pretese. Senza troppe pretese. Dico adesso. Un esercizio della nostra italianità. Senza troppe pretese. Brava, brava. Sciogli lingua, sciogli, le parole sono solo imbrogli, togli e metti, metti e togli, quanti errori, quanti sbagli, sciogli, sciogli, sciogli lingua, sciogli. Pepe dà la pappa al pupo, pupo dà la pappa a Pepe, pupo pappa poca pappa, troppa pappa pappa Pepe, ava leva, l'uva leva, eva l'uova leva dava, quindi eva e priva giuva, metrava e priva tua. Sciogli lingua, sciogli, pa, pa, pa, para, para, para, pa. Benvenuti alla nostra puntata numero 2 di Scioli Lingua. Salve a tutti. Ciao. Salve da Juanini, Alettina e Cintia. E ragazzi, per cominciare con questa notizia, conoscete Nicolas Cage, questo attore statunitense? Sì, certo. Perché abbiamo appunto una notizia su di lui che abbiamo trovato su internet. Perché pare che Nicolas Cage sia un vampiro immortale. Questo lo sappiamo, quanto sembra, per una foto che del 1870, nella quale c'è già Nicolas Cage. Appare lui, sì. Peccato che siamo in radio, non possiamo mostrare la foto. Sì, non fa vedere la foto, ma... comunque potete cercare su internet, sì. Nicolas Cage, vampiri immortali, lo troverete. Sì, ma cercatelo in un altro momento perché vi distraete e non ci ascoltate. Sì, certo. L'attore hollywoodiano Nicolas Cage, noto al pubblico per essere, diciamo, eccentrico al punto giusto, sarebbe al centro in queste ore di una leggenda metropolitana davvero affascinante. Un antiquario americano di nome Jack Mort, infatti, ha messo in vendita per l'esorbitante cifra di $1 milione una foto datata 1870, che, secondo lui, ritrarrebbe lo stesso Cage e proverebbe quindi la sua immortalità. Certo, azzardare che Nicolas Cage sia un vampiro non è cosa da poco, ma al di là dell'incredibile somiglianza documentata dalla fotoprova, la Vox Populi sarebbe alimentata anche dalle sue abitudini piuttosto bizzarre. Tra la sua collezione privata ci sarebbero infatti due cobra che ha di recente consegnato a uno zoo dopo le numerose proteste dei vicini. Forse le cobra suonavano la batteria. Alcuni pipistrelli morti, un pezzo del pianeta Marte, una piovra e alcuni crani umani. E come se non bastasse, di recente si è persino fatto costruire una piramide presso il cimitero di New Orleans. Che il signor Mord abbia ragione? Ma ha fatto costruire una piramide per lui? No, un omaggio. No, come ha fatto? Sì, sembra... Sì, che forse è la piramide nella quale... Ma in questo cimitero di New Orleans. Ma così starebbe riconoscendo che lui non è immortale. Sì, quando morirà sarà sepolto sotto questa piramide. Sì. o forse sì. Lo fa per far vedere gli altri che morirà un giorno, ma non lo farà. Certo, sì sì sì sì. Ma tutti stanno aspettando quando è che muore questo tizio. Sì, ma come siccome tutti moriranno prima. Non più, sì. Che si scorderanno, sì, certo. Che sì. C'era già. Ma da quanto sei qui? Da poco. E poi le cose che ha sono stupende, cioè cose stranissime. Un pezzo del pianeta Marte. Come mai? Quando è andato? Dove l'ha preso, no? Dove l'ha preso? Aveva contatti con la NASA. Sì, perché sempre la NASA è dietro tutte le cose oscure, sì. Strane, sì. Dietro la NASA. Sono cose che non è la prima volta che leggiamo notizie di questo tipo. Persone che non sanno cosa fare con i soldi. Quasi sempre abbiamo delle persone, questo sì. Tipo di persone. Purtroppo non è una cosa che ti fa bene alla mente, diciamo, no? Per cui, per esempio, l'altra volta in conflitto di Robert Pattinson era quello del. Persona sì, che non sì. Sapeva sì, che voleva tirare le camicie sì. o voleva una vita normale sì. Questo in realtà non vuole una vita normale, credo che sia abbia meno conflitti con se stesso, no? In realtà perché lui è già così, il problema sono i vicini, sì, poverini con le cobre che non sopportano le cobre, ma chissà cosa facevano queste cose. Non so, delle feste. I pipistrelli sapevano che non facevano nulla perché erano già morti, sì. Ma sì. Le cobre non so. E poi una piombra, i crani umani, no. Tremendo. Beh, salutiamo Nicolas Cage, speriamo che non se la prenda con noi. Sì, perché si come un vampiro. Non finire il nostro. Scheletro non finisca dentro un armadio di Nicolas Cage. Perché i vampiri possono fare le altre persone immortali anche, no? Cioè se ti morno, se. Sì? No, non so, non è così. Nei film mi sa che è così, che ti mordono e poi diventi immortale e diventi anche vampiro. Diventi anche vampiro. Perché è contagioso. Sì. Si vede che mordono poche persone questi vampiri, altrimenti saremmo tutti diventati sì. Questo non lo sappiamo, ci sono tanti vampiri. Tanti noi. Bene, visto che ormai non ci fidiamo neanche di noi stessi, vediamo di ascoltare qualche canzone. Qualche canzone abbiamo. da pollo fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio d'Apollo. Italiano livello A1. Questa attività è stata preparata in base al quadro comune europeo di riferimento. Dialogo 1. Buongiorno, potrei chiederle un'informazione? Certo, dica pure. Vorrei sapere se ci sono treni per Milano prima delle 19. Dunque, sono le 18:50. Vuole partire proprio subito? No, vorrei riposarmi per 8 minuti e poi partire. Allora abbiamo il treno delle 18:59, binario 7. Devo fare il biglietto prima? Certo, come al solito. Deve fare quella fila. Grazie, lunga però. Dialogo 2. Ciao, anche tu sei amico di Luciana? Beh, in realtà no, non le sono più amico da quando non mi ha più restituito una cassetta di Jon Bon Jovi. Ma davvero? Quale? New Jersey. New Jersey? Ma io ce l'ho quella. Non ci credo. Te ne posso fare anche una copia. Grazie, che sollievo. Rispondete se le seguenti affermazioni sono vere o false. A. Lo sportellista è gentile. B. La signora è stanca. C. Le persone che fanno la fila si lamentano. Dialogo 2. Rispondete se le seguenti affermazioni sono vere o false. A. New Jersey è un album di Bon Jovi. B. New Jersey è una città americana. C. New Jersey è una cassetta americana. D. Luciana ha buttato la cassetta nel cassettone. E. L'ex amico di Luciana ha recuperato la gioia di vivere. Le chiavi di questi esercizi verranno fornite verso la fine della trasmissione. E velocemente, vai! Date il pane al pane cazzo, date il pane a date il pane al pane cazzo, date il pane al pazzo, date il pane al cane pazzo, date il cazzo al panno pagno. Date il. Oh no! Date il pane al cane pazzo, date il pane o cazzo. Date il cane al pazzo cazzo! Bene, i nostri radioascoltatori, come sempre abbiamo degli invitati speciali, degli invitati di lusso. Oggi abbiamo con noi Nicolas Cage. Nicolas Cage, certo che è venuto direttamente dagli Stati Uniti perché volevamo intervistare dopo quella notizia che abbiamo letto. Volevamo veramente sapere se è vero che sia immortale o come, cioè come mai non è una notizia che si legge tutti i giorni. E lui volentieri è venuto qua e diamo il benvenuto a lui. Benvenuto, benvenuto Nicolas, grazie per essere qua. Buona. Con noi Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Stavo leggendo il messaggino. Il messaggino che mio fratello. A tuo fratello ti ha inviato un messaggino proprio adesso. Sì, non sa dove sei. Infatti. E cosa. Grazie, grazie. Che ti ha detto, sta bene? Se possiamo sapere, no? Non è che. No, scherziamo molto con il fratello. Ah, anche lui forse è immortale, no? No, no, no. Ah, no. Beh, sì, è vero che sei un po' per chiarire questa situazione. Come mai si fa per essere immortale? Bene, è vero che sono immortale. Vorrei provarlo proprio questo pomeriggio per voi. E dici, quando è che sei nato? Ricordi, no? Beh, nessuno ricorda in realtà il momento della nascita, neanche voi, no? No, ma più o meno i tuoi te l'avranno detto. Nel secolo XIX secolo. Allora, voi no, vedo delle facce che non ci credete a quello che sto dicendo io. Nelle vostre facce si capisce che non state credendo a quello che dico. Sì, è incredibile poi che qualcuno sia immortale. E poi guardandoti sei giovane, cioè non possiamo credere. Certo. Che quanti anni hai? Centinaio, qualcosa, di anni. È qualcosa, lo dice come se fosse la cosa più normale al mondo, è qualcosa, non mi ricordo. Bene, io ho portato delle prove per convincervi di questo. Non è forse il mezzo più, cioè, giusto? La radio? Sì. Vabbè, ho anche delle registrazioni, però è facile truccare le registrazioni pure, no? Quindi hai portato delle foto, che è importante. Certo, perché io posso fare una conversazione con, che ne so, con qualcuno del passato, fare poi la registrazione, farla truccare. Sì, anche così. Essendo attore di Hollywood, cioè puoi far di tutto, negli studi proprio. Certo, per esempio con Walt Disney. L'hai conosciuto, sì, certo. Certo. Sì, ma già dopo che era già congelato, no? No, ma anche prima, perché no? No, prima non ci siamo visti, no? No, non c'è stato. Io c'ero, però lui sì, no. Sì, certo. Non ci siamo, io non ho conosciuto tutti i famosi. Ah, ok. Cioè, neanche voi conoscete tutte le persone che no, vivono. Sì, però avendo 100 anni qualcosa, hai più possibilità. E voi di vivere quando vi sempre. Sì, questo è anche un altro problema che devo pensare magari un giorno, se smetterò di vivere, magari decido di smettere di vivere, no? E finisci tu con la tua vita, che fai? Certo. Ma quindi tu non hai delle malattie, non ti succede niente, non è... Malattie, quello che si dice, che si chiama malattie, no, non ne ho, no, a parte un raffreddore... Così. Un po' di tosse, no? Ma se sei immortale puoi finire tu stesso con la tua vita? Cioè, forse neanche tu non puoi. Bene, io... Ci hai provato? Evidentemente no. Ma... No, ma forse non sei riuscito. Forse ci ho provato e non ci sono riuscito, ma... No, non ci ho provato perché per ora sono contento comunque. Finché ho buona salute, perché posso anche poi... essere pieno di acciacchi, essere un vecchio e vivere per tanti anni pure, no? Non è detto che sia così. Io ho portato delle foto. Sì, dai, faccio vedere. Questa foto è, per esempio, che sono assieme a Bill Clinton. Bill Clinton. Sì, ma è ancora vivo lui. Non è morto. Clinton, no. Ah, è vivo. Ho pensato fosse morto nelle Torri Gemelle. No, no. Vivo. Per esempio, questa foto. Un po' cercare. Mi sono accanto a Elvis Presley. Sì, lui sì è morto. Lui sì, è sì, morto. Sì. Bravo. E c'è nessuna persona che viva adesso ha conosciuto no, Elvis. No, sì, certo che no. Potevano conoscere. Sì. Sì, essendo giovani ora più vecchi, ma sì. Ah, Allora non è impossibile. No, fateci vedere un'altra più un personaggio. Abbiamo per esempio qui o sono insieme a, lo riconoscete? No, no, chi è? Come dai baffi, facile da riconoscere. Ma quello di Hitler. È Hitler. Eravate amici? No. Abbiamo avuto questa foto io. Ma quella foto mi sembra conosciuta. Mi sembra che lui sia nella stessa posizione del museo, quello del museo delle cere, sì, no? Delle cere, sì. Non è che hai preso la foto lì e ci stai. Alla stessa posizione, forse nel museo. La faccia è un po' brillante. Ora mi ricordo quello di Londra, di sì, sicuro. Certo. Mi ricordo che una volta, tipo 70 anni fa, mi hanno chiamato dal Museo delle Cere per chiedermi la foto che io mi avevo fatto con Hitler per ispirarsi a fare poi la statua di cera. Ma allora non avevano altre foto di Hitler, strano. Sì. Ho quest'altra foto pure. Assieme a chi è questo? Se tu non ricordi, Ah no, questo è mio socio. Morto già, no? Purtroppo sì. Poi mia suocera, che è pure lei immortale. Perché tutte le suocere sono immortali. Cioè, le suocere delle persone immortali sono immortali. Ma tua moglie? Tua moglie? La vita. Io ho avuto parecchi mogli. E tutte le suocere sono ancora vive. No, come le suocere? Tutte quelle che adesso ci sono tutte vive. Infatti, facciamo una grande. Una grande comunità di suocere. No, le domeniche ci riuniamo attorno a. Bellissimo. Mega cenone così. Forse quelle domeniche ti vorresti ammazzare, no? In quelle domeniche, momento in cui... Sì, potresti provarci. Sì, comunque poi io, a proposito, io ho fatto uno scambio con il Museo delle Cere. Io ho donato la foto per che lo facessero la statua di Hitler. E loro hanno fatto una mia statua di cera. Allora io, quando c'è la riunione con le suocere, io lascio... Che diligente! Che bello, ora non si rendono conto. Dai, quell'altra foto non vi è. Questo sarebbe Benito Mussolini. Benito Mussolini, che da piccolo, no? Aveva 8 anni qui. Sì, ma se tu hai tipo 100 e qualcosa. No, sì, lo potevi conoscere, però non da quando piccolo. Era piccolo, quando era bambino. Sì, anche. Sì. Forse sì. C'era anche sì, ma che ne so io se lui o un altro bambino. Cioè. Perché hai pantaloni corti. Sono i basketball, devi credere a me. No. E tu quanti ne avevi lì? Non ricordo. Io già, tipo 40. Non saprei, perché queste foto le possiamo pubblicare, possiamo fare tipo una conferenza. Sotto la legge americana c'è un sacco di limitazioni, no? Ai diritti d'autore, eccetera. No, dovete pagare i diritti d'autore. Ma diritti d'autore, no? È che vogliamo capire se è vero o no. Questo sì, della... sì, appunto. Perché noi possiamo dire, ci sorprende, ma gli altri non lo possono vedere. No, certo, potete sottometterle alla pubblica, se opinione, vedere che... Quello se ti interessa che si sappia la verità, forse... Questa è la verità, quello che vi sto dicendo. No, ma perché c'è molta gente sì, che... Sì, va bene, ma le foto saranno commentate da tanti... Stronzo si può dire? Qui, no? Sì, si può dire. Mettiamo poi forse qui. Da tanti stronzi che tanto poi... Sempre ci sono degli stronzi che commentano le foto, che, no? Scusa, questo mondo cosa di facevi Facebook? Con Benito da piccolo? Cioè Benito piccolo, perché piccolo io non sapevo già che lui sarebbe diventato questo grande dittatore. Era detto bene che ci facciamo una Italia, foto. Facciamo una foto. Ah, lo sapevo. Sarà storica questa. Ah, perché hai tipo anche dei poteri, ma boh, hai dei poteri per me. O un sesto prevedere sì, il futuro, sì, eccetera. Senti. No, per niente, per niente. E qual è la ragione? Perché sei tu immortale? Questa è una cosa che io non so. Miracolo. Forse sì, è un miracolo. Io sono immortale, ma c'è un problema che non posso risolvere, è che cioè c'è il bagno, no? Qui, no? Sì. Posso andare in bagno? Sì, proprio adesso, no. Sì, perché proprio se mi scappa. Cioè, ah sì, con gli anni si capisce. Devo quindi. Ok. Poi andate avanti con dai, il programma, sì, no? Sì, vai, grazie, dai, grazie, no. Poi ci vediamo e vi faccio le foto. Grazie, sì, mille, forse, grazie. Vai tranquillo in bagno, no. Sì. Incredibile, noi abbiamo visto le foto, però tu ci hai creduto? Veramente non lo so, non voglio dire neanche di no, ma... Sì, cioè dobbiamo anche rispettare sì, questo, comunque, però... cioè. E poi non è la prima persona che lo dice, le prove che ha portato oggigiorno col fotomontaggio e tutto sì, quello. Si può fare. E poi Benito Mussolini da piccolo, poteva essere qualsiasi bambino. Quindi noi sempre vogliamo portarli... Cioè, delle notizie, poi volevamo vedere se era vero o meno, però... vabbè, abbiamo un po' di dubbio. Lasciamogli il dubbio aperto, diciamo. Beh, continuiamo con la programmazione. Andiamo avanti con Scegliere. Andiamo avanti. Con i nostri chiar di luna... Quando al cinema si va, il bambino mio fa festa, e un po' anche il suo papà. Ma nel buio sul più bello, lui ti dice così. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì. Abbiamo oggi un film da condividere con i nostri radioascoltatori, un film molto reale, ma molto carino anche, I 100 passi, sicuramente noi lo abbiamo visto, ma sicuramente molti dei nostri radioascoltatori lo hanno già visto o ne hanno sentito parlare, sicuramente. Ha a che fare con un periodo dell'Italia, no? Della storia italiana, che sono gli anni 70, mm-hmm. No? Un periodo veramente sì. Accaduti, è un periodo complicato, movimentato nella storia italiana, e ha qualcosa che in realtà non ha diretto rapporto con gli anni 70, esclusivamente, che è la mafia, no? Gran parte della storia italiana. La storia italiana, sì, pure. Il protagonista del film è questo personaggio reale che si chiamava Giuseppe Impastato o Peppino Impastato. Peppino Impastato. Perché è il protagonista di questo film? Perché diventa lui il protagonista di una storia? Perché lui ha un rapporto con la mafia, diciamo, è contro la mafia, ma un rapporto perché suo padre... forma parte di una comunità, diciamo, mafiosa, sì. Ma lui se ne rende conto che le cose che fa la mafia, cioè, non è affatto d'accordo, quindi agisce vuole cambiare, sì, la situazione, anche perché lui abitava un paesino cinesi, mm. E non è che quello che faceva suo padre non era l'unico suo padre che faceva parte della mafia, erano tutte le famiglie, tutti i capi famiglia erano in qualche modo, sì, complici, coinvolti con la mafia, ma lui pensa in un modo diverso dagli altri e vuole cambiare le cose, denuncia quello che succede, lo dice a voce alta, non ha problemi, non sente paura. Lo denuncia in una radio, vero? Denuncia tutte le cose che succedono in una radio, ma anche, sì, a volte per la strada fa dei, non so, chiama le persone, sì, sì, delle manifestazioni. Ma soprattutto il suo lavoro, sì, che prende in giro proprio al capo mafioso Tano Seduto che abita a 100 passi da casa sua, appunto per quello il nome del film, sì. Quindi il lavoro che lui svolgeva in questa radio, una radio libera, no? Di quelle che sono sorte in quel periodo, mm-hmm. Non erano radio con un permesso legale di trasmettere, bueno, sì. Ma grazie che si ascoltava a lì nel paesino, certo. Lui tramite la comicità, no? La satira, l'ironia, sì, riesce a trasmettere alla popolazione quello che fa passare questi messaggi, quello che pensa e quello che succede nella realtà, sì, e come tutti lo sono complici e lo ricevono passivamente, sì, diciamo. Per questo che succede con la mafia della montagna, non sento, non vedo, non parlo, certo. Ma tutti, sì, quando sentivano il programma di radio ridevano, anche perché sanno che è vero, ma siccome lui lo diceva in un modo più buffo, che altro comico, sì, buffo, forse lui pensava che con quel atteggiamento poteva far ragionare le persone, cambiare il suo modo di pensare, ma lo ha fatto con molti, perché i suoi amici lo aiutavano, non è che, sì, era da solo, lui era il, sì, chi portava tutto avanti, ma... E poi la sua mentalità, diciamo, in qualche modo si parla qui in alcune critiche che abbiamo letto, si parla di spirito civico, mm, no? Questo ha a che fare con un'idea di Stato, mm-hmm, nazionale, diciamo, no? Quindi l'idea di che esiste di partecipare, il potere, che esiste la democrazia, che esistono i poteri, che la polizia è diciamo per lavora per la gente, no? Sì. Per esempio, per la giustizia, in qualche modo è un senso, è una mentalità moderna rispetto alla mentalità quasi medievale, che implica la mafia, quel potere del signore feudale praticamente, che è gioco di dipendenze che implica la mafia. Sì, perché altrimenti non potrebbe funzionare il sistema della mafia se tutti pensassero come pensava Peppino. La mafia non esisterebbe, certo, se non esistono quelle complicità e questioni culturali che hanno delle radici molto profonde, sì, in sì. alcune zone d'Italia. Si parla anche nel film del rapporto che c'è tra Peppino, un pittore comunista, che l'aiuta a vedere le cose in un modo diverso da lo vede come suo padre, un padre etico, sì, perché come abbiamo già detto il suo padre biologico formava parte della di mafia, quella, sì, di quel città. sistema. E quando si rende conto delle cose che fa lui attraverso la radio, lo caccia via come di casa, sì. Di casa. Bene, poi la morte di Peppino, che avviene per assassino, no? È stato assassinato dalla mafia e la vogliono farla passare per suicidio. Coincide con la morte di Aldo Moro. Per questo fatto l'Italia in quel momento, quando muore Peppino, è un po' distratta dall'altro che è un fatto molto importante, perché poi si veniva da molti giorni di sequestro, di prigionia da parte delle Brigate Rosse, quindi si stava aspettando che ci fosse una fine anche per quel fatto. E per cui la morte di Peppino rimane un po' diciamo dimenticata per un po' di tempo. E anche questo film, che è un film del 2000 di Marco Tullio Giordana, serve anche a svegliare certe coscienze di giovani che non hanno vissuto quel periodo. Quindi è anche interessante da quel punto di vista, perché dopo 22 anni dal fatto si esce questo film. Era anche un fatto conosciuto, e la causa e tutto, ma lo rende più noto, diventa sì anche più noto, lo rende più noto. Quindi ve lo consigliamo, sì, certo. E anche i Modena City Ramblers hanno scritto una canzone a proposito del film e anche della situazione dei 100 passi di tutto e di Peppino. Quindi ascoltiamo, sì. Partire, invece lui decise di restare. Gli amici la politica alla lotta del partito, alle elezioni si era candidato, diceva da vicino si avrebbe controllato, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non lo hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare e dimmi se sai anche camminare, contare e camminare insieme a cantare la storia di '78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Italiano livello A1. Chiavi del vero o falso. Dialogo 1. A. Vero. B. Vero. C. Falso. Dialogo 2. A. Vero. B. Vero. C. Faro. D. Velso. E. Vero. Magiche? Va bene, ti dirò quali sono. Sei pronto? Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Sopra la panca la crampa campa... No, panca, non cranca, capra, non crapa. Attenzione, coda rossa, dillo velocemente, su. Adesso, purtroppo, siamo arrivati alla fine del programma. E sì. Purtroppo, perché ci piace tanto fare il programma, ma sempre... la fine arriva. Deve arrivare pure. Però ci dicono che sì, c'è una. Che sorpresa! Una telefonata in linea. Una telefonata in linea, quindi magari c'è un ascoltatore che ci vuole salutare. Un'ascoltatrice. Sì, sì. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao! Sì, chi sei? Oddio, non posso credere che sono riuscita a parlare con voi, vi adoro, vi adoro! Grazie! Siete fantastici! Grazie, come ti chiami? Oh, adesso non ricordo nemmeno come mi chiamo perché sono così emozionata, oddio! Dai, forse un nome devi avere! Mi chiamo Laura. Ah, Laura, grazie di chiamarci! No, grazie a voi di avere... Di essere così carini. Che emozione, no? Che ci sia una persona al mondo, no? che sia così fan, no? Mi commuove. Sì, adoro, sì. Giuro che mi ascolto sempre. E da dove ci chiami? Laura, da dove ci chiami? Da Milano. Da Milano, guarda. Sì. E parla un altro po', Laura, prego. Sì, raccontaci. Cosa ti piace, Laura, del programma? Sì. Tutto, mi piace assolutamente tutto. Sì, specialmente Ale, no? Come? Ale è bravissima, no? Sì, lei è fantastica, ma voi due siete meravigliosi proprio. Io ho tutte le vostre foto perché vi ho trovati su Facebook e... Sì, Ale, sei tu? No, che Ale? No, io sono Laura, mi chiamo da Milano, sono la vostra fan. Sì. Dai, sì, Ale. Sì, ma vi giuro, veramente. Ci siamo già resi conto, Ale. Dai, dove sei, Ale? Ma perché non mi credete? Dai, Ale, non... Non si fanno queste cose, vediamo cose, che Ale. Non ci sei, ci chiami, è la tua stessa voce. Ma no, siete no. Matti? Ale, che fai? Vieni qua, ti aspettiamo, dai. Ok, mi avete scoperto, va bene. Vengo subito. Questa è incredibile. Vabbè. Appunto, sì, davvero, sì, io stavo pensando che era andato in bagno, pensavo. Sì. Che fosse andata in bagno. Beh, e quindi adesso vi saluta anche Ale. Perché non mi siete troppo intelligenti. Sì, perciò facciamo questo programma. Forse se facevi finta. Sono molto delusa. Un'altra persona, un altro accento. Beh, vuoi salutare qualcuno? Perché stiamo arrivando alla fine. No, sono triste. Beh, sì. Beh, salutiamo tutti gli ascoltatori. Siamo molto felici di arrivare fino ai vostri... Di arrivare ai vostri cuori. Sì, produttori MP3, lettori MP3. Alle vostre case, alle vostre vita. Sì. Siamo felici di accompagnarvi. Un grande abbraccio. Grande abbraccio, un grande bacio. Ciao. Oh, bella forestiera. Ti vieni da lontano. Capisci? O non capisci? Come far, ha bisogno un traduttore per spiegarle il suo amore. Ai ai, dite come far, ci vorrebbe un poeta per tradurre le parole. Ehi già.